Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Allora, da ieri ci stiamo interessando di un tema molto, molto sentito in Lombardia in questo momento, soprattutto dopo l'operazione Il Crimine, che il 13 luglio del 2010 ha portato sull'asse Milano-Reggio Calabria in carcere o comunque agli arresti domiciliari o comunque indagati oltre 300 persone. Che cosa accade? Che il Consiglio regionale della Lombardia prende atto di una cosa che ormai sanno anche i bambini, vale a dire che in Lombardia la mafia esiste anche se non si vede. Posso aggiungere che tra le altre cose si vede anche benissimo. Ciò detto, il Consiglio si riunisce, 75 consiglieri presenti, quelli che non sono presenti sono pochi e giustificatissimi, e all'unanimità approva una delibera che è una presa d'atto ma è anche un impegno forte e concreto, vale a dire, preso atto che qui da noi le mafie ci sono, si infiltrano nell'economia e nella società, prendiamo l'impegno di promulgare una legge che dica alt e fermi questa penetrazione a partire dal mondo degli appalti. Il tema che affrontiamo oggi ci è stato segnalato da voi radioascoltatori, quindi vi ringrazio e vi ricordo la mail sottotiro@radio24.it per segnalarci qualunque altra prova di resistenza con i fatti e non a chiacchiere contro le mafie. Ieri ne abbiamo parlato, per quel che riguarda la Lombardia, con il consigliere di maggioranza Popolo delle Libertà, Paolo Valentini Puccitelli. Oggi ne parliamo con l'opposizione, con l'UDC, che in Regione Lombardia appunto è all'opposizione. Ne parliamo con chi? Con il consigliere Gianmarco Quadrini. Buongiorno Quadrini. Buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori. Allora, io parto dall'ultima domanda che ho fatto ieri al consigliere, al suo collega Valentini, e poi quindi andiamo a ritroso. La domanda che ieri gli ponevo era questa qui. Caro Quadrini, può dire con assoluta certezza che nessuno oggi in Lombardia fa patti scellerati con le mafie? Ma io non me la sento di dirlo con assoluta certezza, anzi, se prendiamo atto del fatto che ormai è evidente lo stretto rapporto anche in Lombardia con la malavita organizzata, dovremmo forse alzare un po' la guardia, quindi anche i partiti stessi dovrebbero un attimino interrogarsi su questo e magari guardarsi un po' più dall'interno. Certo, ecco. Certo. Io certo. Non metto la mano sul fuoco. Assolutamente. Allora, lei rappresenta l'opposizione. Perché vi è piaciuta questa delibera? E soprattutto le chiedo, ci credete e quale sarà l'apporto delle opposizioni a far sì che dalle parole si passi ai fatti? Vale a dire che ci sia poi la legge. Ma guardi, ci crediamo per una ragione molto semplice, mi consenta di dirlo. La seduta era iniziata con 4 ordini del giorno, uno diverso dall'altro. Ah. E proprio in un intervento ho detto che sarebbe stata una cosa ridicola se alla fine ognuno avesse votato il proprio ordine del giorno. Quindi la Lombardia doveva dare un messaggio forte, era quello di uscire con un unico testo, condiviso, che impegnasse tutta l'assemblea, e infatti così è stato. Quindi questo è mi permetta di riassumere, cioè quel giorno in consiglio regionale sullo stesso tema, vale a dire il tema della legalità e delle opposizioni alle mafie, si è raggiunti con 4 delibere. Lei ha preso la parola e ha detto: ma non ci dividiamo sul tema che non ha colore politico, giusto? Certo. Bene, ecco, quindi questo è molto importante, il suo ruolo di mediazione va sicuramente apprezzato. All'interno dell'oggetto della delibera, consigliere Quadrini, si parla della definizione dello status dell'amministratore pubblico, una cosa che così vuol dire tutto non vuol dire niente. Ce lo vuole spiegare? Sì, cioè bisogna arrivare a un testo unico, diciamo così, siccome oggi sono più testi che definiscono lo status dell'amministratore, soprattutto per quanto riguarda l'incompatibilità, l'ineleggibilità, il conflitto di interesse. Quindi su questa questione bisogna essere chiari, bisogna stabilire con chiarezza chi può essere amministratore locale, amministratore pubblico, e chi per sbagliate ragioni non lo può essere. Quindi questa è una questione di fondo, perché stabilito quali sono i criteri, no? Si evitano tutta una serie di questioni, di lungaggini, di interpretazioni che spesso poi portano a soluzioni che sono solamente, certo, politiche. Anche perché poi, mi corregga se sbaglio però, Quadrini, perché ringraziando Dio la verità in tasca non ce l'ha nessuno. Nessuno. Questo aiuterebbe anche la magistratura nel suo ruolo, perché spesso oggi alcuni reati sono al confine tra il fattibile, il verosimile, il possibile, l'impossibile. Parlo per esempio l'abuso d'ufficio. Sì, esatto. Ecco, è corretto quello che dico? No, ha ragione. Questo è sicuramente un testo chiaro e facilmente interpretabile, aiuterebbe anche la magistratura, questo è evidente. Quadrini, oltre a questo suo ruolo di mediazione apprezzabile, concretamente ci racconti lei, come dire, quotidianamente cosa fa nei confronti delle persone che l'hanno eletto, nei confronti dell'elettorato, ma nei confronti dell'intera regione, per supportare i valori della legalità? Ma guardi, il valore della legalità secondo me li si supporta cercando di comportarsi bene, come si suol dire, quotidianamente. Io appartengo a quelli che sono stati eletti, come tutti i miei colleghi, attraverso il meccanismo delle preferenze. Cosa vuol dire questo? Che in qualche misura c'è un territorio che mi ha dato una delega. Certo. E io devo cercare di rispondere a questo territorio e di farmi giudicare da questo territorio. Quindi chi mi conosce, così penso e spero tutti gli altri miei colleghi, noi terminato il lavoro d'aula, il lavoro di commissione, eccetera, poi inizia per noi un lavoro di presenza sul territorio, confrontandoci con le amministrazioni locali, con i sindaci, con gli assessori, con le associazioni di volontariato, i quali hanno sempre difficoltà a misurarsi con le istituzioni, certo, e anche con la burocrazia delle istituzioni. Quindi il comportarsi bene vuol dire agire con trasparenza nei confronti di questi benissimo, soggetti che ti hanno anche dato la fiducia. Benissimo, io la ringrazio per il suo intervento, Quadrini. Grazie e buon lavoro, così come ringrazio in regia Peter Bescapè, in studio Laura Faggini e Roberto Calullo. Vi auguro una buona giornata.